Ciao, sono Romeo Frizera, sono di Volano, insomma, 22 Tipo anni tu? e Io sono sono viticoltore. Ho studiato presso istituto di l'Liceo San Michele Agrario come imprenditore agricolo, quindi e al momento, comunque ormai il 2019, ho aperto un'azienda agricola, solo viticola praticamente, e quindi conferisco a cantine sociali e al momento appunto faccio questo. Potresti raccontarmi com'è iniziato, da dove ti è partita, no, questa Stavo. voglia di cimentarti con questo lavoro Allora, e che cosa? innanzitutto in famiglia c'è sempre stata questa cultura, diciamo, dell'agricoltura, quindi dalla parte di mia mamma la famiglia era agricola, ecco, quindi anche mio zio, e grazie anche a lui, insomma, mi ha portato in questo mondo dell'agricoltura. Poi ho fatto la scuola, quindi superiori lì a San Michele, e ecco, dopo ho avuto l'occasione di conoscere comunque gente che mi ha passato la loro passione, su questa si parla comunque della viticoltura e comunque della terra. E dopo appunto ho deciso di immergermi in questa nuova esperienza, quindi aprendo la partita IVA, aprendo azienda e provando proprio sulla mia pelle, insomma. Non è un mondo difficile oggi? Insomma, come tante cose, bisogna un attimo, soprattutto con l'esperienza, comunque con i giorni che passano, soprattutto gli anni, appunto le raccolte, si fa esperienza, si cerca di migliorare, si cerca di organizzare un po' meglio quello che è il lavoro e chiaro, ogni anno ha la sua particolarità, però insomma. È l'esperienza che fa tanto e essere appoggiati, insomma, cioè avere un po' appoggi esterni con altre persone un po' più anziane che fanno questo lavoro da tanto. C'è una persona importante nel vostro bagaglio, nella vostra esperienza, e cosa vi ha insegnato? Beh, mio papà, mio zio, insomma, sono anni che fanno questo lavoro, insomma, di sicuro la quantità di ore che servono. La costanza comunque delle ore, tante volte, soprattutto con l'inizio di questa stagione, son maggiori rispetto all'inverno, chiaramente le ore luce sono di più e comunque in rapporto al lavoro, insomma, aumentano, ecco. E niente, la quantità, insomma, delle ore che bisogna dedicare a questo lavoro. Dopo io ho parlato appunto di quantità, ma ci vuole anche la qualità soprattutto soprattutto in questi ultimi periodi, insomma, bisogna cercare di trovare un attimo l'obiettivo, no? E quindi dedicarsi un po' di più a quel tipo di obiettivo lì, anche perché adesso, devo dire, insomma, rispetto agli anni passati o comunque andando indietro negli anni, si cerca di fare un altro prodotto, parlando di uva, comunque vigneto, si cerca di puntare appunto più sulla qualità e quindi anche base spumante, soprattutto in questi ultimi periodi, va alla grande, ecco. E anche lì bisogna guardare la qualità, insomma, che viene data appunto dalla quantità di ore e comunque dal tempo che ci si dedica. Nella mia azienda, quindi qua a Volano, coltivo le varietà Chardonnay, Pinot Nero, Marzemino, principalmente Pinot Grigio anche in parte. Il mercato appunto sta spingendo su queste varietà a base spumante, insomma, che praticamente riducono, mentre una volta, insomma, le varietà erano molte e soprattutto rosse, appunto, la vendemmia era un po' più, la finestra, insomma, di raccolta era un po' più aperta e soprattutto era anche più tardiva. Mentre adesso, insomma, con queste varietà Chardonnay, Pinot Nero, anche Pinot Grigio, la vendemmia è più anticipata e comunque più ristretta, insomma, no? Quindi bisogna un po' organizzarsi appunto meglio, quindi magari con più persone e fare e finire, ecco, in pochi giorni, in poche settimane. L'anno scorso e l'anno prima, comunque da Ferragosto, si era già iniziato il primo giorno di vendemmia e da lì finché ogni giorno, insomma, fino alla fine di queste varietà, ecco. e appunto si inizia prima, si finisce prima. Rispetto alla vostra esperienza nel passato, come funzionava? C'erano dei tempi più tranquilli? Devo dire che, no, ma anche noi te lo dico, insomma, siamo entrati, diciamo, con già questa tipologia di mercato, no? Quindi era già spinto su quel fine lì, quindi anche noi ci siamo trovati, diciamo, all'interno, ecco. Non, cioè, se si va indietro ancora di qualche anno, magari riuscì a vedere questa differenza, no? Infatti, voi siete gli addetti ai lavori e dovete starci dentro in questa dimensione qua. Ma se poteste pensarla in modo diverso, come sarebbe il lavoro ideale da fare nella tua, nelle altrui campagne? Sicuramente, almeno io non mi sento proprio un contadino, devo dire, perché comunque il contadino era comunque quella persona che aveva un suo, come dire, la vista, o comunque aveva le mani un po' dappertutto nella terra. Veramente erano ampie, insomma, le colture, e comunque allevava, aveva comunque bestie e appunto orto, e si arrangiava, insomma, si autoproduceva il cibo o quello che è, insomma. Mentre adesso, insomma, mi sento un po' più al momento imprenditore, appunto, nel senso che, come piano piano si stanno adeguando anche queste aziende, nel senso che stanno diventando a tutti gli effetti aziende. Pur agricole, però insomma ci si è specializzati di più su quel settore lì, quindi la viticoltura, si fa quello e si cerca di far bene, ecco.